Tempo di Sport con Carlo Genta. Buongiorno a tutti, a quanto pare Fabio Capello ha messo la freccia per andare ad allenare l'Inter. La voce si è diffusa in mattinata, adesso c'è anche un'agenzia. Fabio Capello è il favorito di Massimo Moratti per la panchina dell'Inter. In queste ore si sta lavorando per tentare di portare a Milano l'allenatore della nazionale inglese qualora l'operazione non dovesse andare in porto. Resta favorito Siniša Mihajlović. Questo è quanto, poi ci giochiamo e ci scherziamo anche un po' sopra, magari con voi. 800 24 00 24 è il numero verde da cui partiamo, e poi vi diciamo alle 2:30 circa, dopo la pausa vi diremo dove va Alexis Sanchez, anzi ce lo facciamo dire, ci faremo dire dalla voce più autorevole che c'è in questo momento dove andrà Alexis Sanchez. Parleremo anche dello scudetto di Siena, ma adesso io voglio restare sull'Inter. Un genio della cucina per il polpettone nerazzurro dell'estate, direttamente dal ristorante Do di Milano, Davide Oldani, nostro amico. Ciao Davide, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Davide, fammi una cortesia, abbassami la radio, se no ritorno in cuffia pazzesco e non riesco a sentirti. Grazie. Dopo... va bene? Perfetto, dopo rialzala, mi raccomando. Senti, già che ci siamo, ci diamo un pubblico appuntamento. Io so che il lunedì, grosso modo, riesce a trovare un po' di spazio. Ci viene a trovare un lunedì di questi? Certo che sì, aspettiamo di vedere la campagna acquisti e di sistemare la squadra, poi vengo. Così è pubblico l'appuntamento. Senti, il polpettone nerazzurro dell'estate, io partirei dal bollito però, deluso da Leonardo? Ma no, non deluso, perché tanto ho capito che anche in quel mondo lì c'è poca purezza. Grazie a Dio uno dei pochi puri che ci sono in giro è Zanetti, ce l'abbiamo noi all'Inter. Sì. Quindi questo mi rincuora un po'. Poi ho capito adesso, ho sentito adesso queste due notizie di Mihajlović e poi dicevi Capello. Di Capello. Non so, starei a vedere un po' alla finestra se ambedue con loro portassero un po' di persone che potrebbero creare quel vuoto che c'è tra società, allenatore, dirigenti e presidente. Quella persona che era Mourinho fino all'anno scorso, no? Perché lui era tutto questo. No, difatti questo stile sicuramente dovrà essere adottato nell'Inter, se no saremo ancora quella squadra che fa il botto nei 2 o 3 anni, poi o 5 come abbiamo fatto fino ad ora, e poi rischiamo di andare ancora un po' nel dimenticatoio. Sì, però siccome sono anche uno di quelli che ragiona sui calcoli, sul fatto dell'azienda, che l'Inter sia comunque un'azienda con scopo di lucro, di essere attivo, no? Sì. Credo che il presidente tra l'anno scorso e quest'anno possa fare anche un discorso del genere, che a me, tifoso storico dell'Inter, potrebbe anche andar bene, voglio dire. Sì, si può vincere, anche perché di squadre oramai sullo stesso livello, se parliamo del campionato europeo, cioè della Champions, ce ne sono veramente tante, quindi non possiamo pensare di essere gli unici a vincere ogni anno. No, questo no Davide, però mi pare che adesso si tratti di fare grosso modo una scelta di vita, cioè o si prende un allenatore traghettatore, ma perché hai già in mano un grande nome per l'anno prossimo, oppure bisogna fare una scelta definitiva, e allora io credo l'Inter non possa rischiare, debba andare con un big, sia esso Capello, allora, sia esso Iddink. Secondo me è bene dare una smorzata anche questi cosiddetti big, perché fare il traghettatore a X milioni di euro all'anno, non voglio fare il polemico, però mi sembra un po' una cosa non bella nei confronti di molta altra gente che lavora. Sì. Quindi direi che il traghettatore non esiste, il traghettatore potrebbe essere l'allenatore della primavera dell'Inter, ma non credo sia il caso di prenderlo. Credo che se questa gente tipo Capello avesse veramente voglia di fare, di rischiare la faccia, dovrebbe in questo caso accettare, rimboccarsi le maniche e lavorare. Davide, se dovesse farlo un qualcosina per il futuro, io un'idea mia ce l'avrei. Quale? Okay. Che è quella di Baggio coordinatore, e naturalmente Guardiola dopo essersi saziato tanto a Barcellona. Senti, hai avuto modo di dirlo a Moratti? Così. Ma no, non a lui direttamente, con qualche messaggio giornali, televisioni l'ho fatto però. Mettiamoci un po' di mostarda adesso, perché tutti vogliono andare via dall'Inter? Eto'o, Snyder, Lucio in forme diverse, in modi diversi, ma perché questa diaspora? Bisogna andare anche a vedere questi che hai detto. Allora, Eto'o, se dovesse essere vero, naturalmente perderà tutta la stima che io ho in lui, perché è troppo facile venire, dare il colpo e poi dopo mandare a batter cassa. Quindi se lo dovesse fare tu, sicuramente da me avrebbe sicuramente non più un occhio di riguardo, anzi ne sarei felice di parlarne male. Per quello che riguarda Snyder, mi dicono per altri motivi, come furono i motivi che allontanarono l'Inter da quel difensore brasiliano che poi andò al Real Madrid. Adesso mi sfugge il nome, comunque problemi o tipo problemi di Adriano, ecco, sì, una roba del genere. Sì, sì, sì. Quindi se la società decide di prendere certe di andare su una certa via, probabilmente è perché anche i fatti in mano. Questo è quello che ho sentito io così in via traversa. Ti faccio ascoltare una cosa che non riguarda l'Inter, ma che insomma ho trovato molto divertente e morivo dalla voglia di farla ascoltare a te. Voi sapete la pentola, dunque, la pentola in cucina c'è una regola, io lo dico sempre: se voi volete fare sempre un piatto di pasta all'ultimo momento, per cui dovete tenere sempre il fuoco acceso e perlomeno 4 litri d'acqua che devono bollire. Poi, se a uno gli va un piatto di spaghetti, poiché ci vogliono dai 10 ai 14 minuti a seconda della trafila di bronzo che hai usato, e quindi bisogna vedere pure la marca e compagnia bella, e poi la salsa non ci vuole nulla, perché la salsa straordinaria, se c'hai i pomodori buoni e il basilico fresco, in 5 minuti si fa. E allora voglio dire, tu in 20 minuti ti metti a tavola. Allora noi dobbiamo essere pronti a tenere la pentola sempre in ebollizione. Quindi noi siamo sul mercato con la pentola sempre pronta per cucinare i migliori spaghetti del mondo. Poi ci vogliono 20 minuti per attavolarsi. E state tranquilli che quando io mi attavolerò, vi telefonerò e vi dirò gong communication. Davide Oldani, come lo vedi De Laurentiis in cucina? Ma benissimo, perché è una cucina che ricorda un po' la vecchia Inter, una grande cucina, perché quando uno ti dice che ci vuole, ragazzi, ci vogliono 14, 15, 18 minuti per mangiare uno spaghetto, ha ragione, non è più il cotto mangiato velocemente o mal fatto pur di apparire, è una cosa concreta, quindi grande interpretazione e devo dire anche i tempi giusti. Puoi prendere lui al prossimo programma invece di Gattuso. Per lo spaghetto sicuramente. Non è un'idea malvagia. Un'ultima cosa, Davide, finiamo con la torta, quella delle scommesse. Oggi signori, è andato a fregnare in TV, mai fatto scommesse illegali, eccetera, eccetera. Tu che idea ti sei fatto di questa storia? Io non ho visto la TV oggi, ho sentito qualcosa, non vorrei commentare cose del genere, perché, ripeto, non capiscono che sono già dei privilegiati ad essere stati per 10 anni a grandi livelli. Non capiscono che hanno potuto avere soldi anche da investire per poter far star bene loro e i loro figli e così per altre 3 generazioni. Se uno non capisce questo e poi si trova a avere problemi del genere, io credo che la gente possa commentare da sola. Davide, ti saluto con un messaggio di Renzo. Cipolla caramellata, una specialità da Do, scrive un ascoltatore che evidentemente ti conosce bene. Sì, grazie, se lo saluto. Spero sia un interista anche lui, oltre che a stimarmi nel cibo. Questo non lo scrive, Renzo da Milano. Ti aspetto qui, uno dei prossimi lunedì. Un abbraccio. Grazie. Un abbraccio a tutti, grazie. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Grazie a Davide Oldani. Con Franco Biancaneda in redazione, Mauro De Angeli in regia, sentiamo il traffico, poi torniamo insieme. 800 24 00 24, numero verde. Ovviamente per i messaggi 349-238-6666, vi rileggo l'agenzia delle 13.59. Fabio Capello è il favorito di Massimo Moratti per la panchina dell'Inter, in queste ore si sta lavorando per tentare di portare a Milano l'allenatore della nazionale inglese. Io credo che la Football Association sia la più grande alleata in questo momento dell'Inter di Moratti, se veramente questo è l'obiettivo. Fabio Capello, che magari contattato da Moratti potrebbe aver risposto così. Credo che sia giusto aspettare prima, certo, esatto. Dopodiché lei mi potrà fare delle domande al quale io sarò in grado di rispondere, però ci vuole molta cautela nel parlare, nel proporsi. Qualche cosa so anch'io quando leggo, vedo. Si cerca di deviare sugli altri. Ovviamente sono Renzo e Juventino, tanto per dare la risposta completa a Davide Oldani di prima. Ovviamente sono parole di repertorio e stiamo giocando un po'. Ma chi vorrebbe giocare a questo gioco e ancora non si è rassegnato è Sinisa Mihajlovic. Anche oggi Lo Monaco ha detto, io lo conosco bene, il suo sogno è quello di allenare l'Inter, quindi magari sta ancora dormendo con il telefono sotto il cuscino. Guardiamo fiduciosi il futuro. Marco da Pavia, buongiorno. Buongiorno Carlo. Poi le faccio sentire anche la risposta di Ancelotti. Meno male, senta. Anzi, senti, perché ci conosciamo. Sì. Io intervengo semplicemente per dire che, al di là del fatto che il campionato italiano ultimamente è abbastanza noioso, diciamolo chiaramente, no? Al di là del fatto che l'Inter ha vinto per 5 anni di fila per mancanza di, diciamo, livello alto, no? Ho come l'impressione, sentendo anche Oldani, che l'Inter quasi sia rassegnata ad andare incontro a un ciclo antecedente a quello degli ultimi 5 anni. Mm. Questa è la paura di molti tifosi dell'Inter, no? L'altro giorno parlavo di questo pizzico di depressione o di fatalismo. Stiamo tornando all'Inter di un tempo. Non credo sia così, certamente c'è un vuoto di potere, quel potere che Mourinho ha tenuto in mano per 2 stagioni totale, no? Quello che adesso è Real Madrid, c'è questo vuoto di potere in cui si insinuano queste voci. Dicevo l'altro giorno, l'Inter è anche l'unica società di alto livello in cui si fa mercato pubblico, no? Si fa mercato in piazza. Da altre parti, quando comincio a sentire la voce, il Barcellona è vicino a Sanchez, vuol dire che, non so se è così, però vuol dire che manca la firma e poco altro. All'Inter tutto esce, con Mourinho non era così, lo sappiamo bene. Marco, grazie, alla prossima. Giulio da Piacenza tra poco. Intanto vi faccio sentire un'altra voce, perché c'è chi all'Inter invece ha tirato il pacco, non solo Bielsa l'altro giorno, non solo Villas-Boas, che tra l'altro le agenzie danno vicino al Chelsea, c'è questa clausola rescissoria altissima, 15 milioni di euro, che sono una follia. Chi ha tirato il pacco all'Inter? Carlo Ancelotti. Ale, ale, ale, Milan, ale, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Avrà risposto così alla telefonata di Moratti? Magari sì, Giulio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono ovviamente interista, chiamavo per il discorso di Capello, che io vedrei come una cosa molto negativa. Mi ricorda tanto l'avvento di Lippi in nerazzurro dopo diciamo anni di Juventus, ma non perché è stato la Juventus, anche visto Trapattoni è stato la Juventus, cioè l'Inter è stato ben voluto, ma ho idea che sinceramente, dopo soprattutto quello che ha detto ultimamente, io non lo vorrei. Io non mi avessi, fossi Moratti non lo proprio non li parlerai nemmeno. Ci sarà un giovane in giro, no? Piuttosto Fulvio Pea, Baresi, non so, qualcuno, lanciare qualcuno. Mi pare che Pea sia andato ad allenare il Sassuolo, prima anche Davide Oldani diceva, ma l'allenatore della Primavera, che tra l'altro ha fatto benissimo in questi anni, però ha cambiato club, è andato ad allenare la prima squadra del Sassuolo. Poi io posso capire il risentimento o il non alto gradimento dei tifosi dell'Inter come lei per Fabio Capello, che insomma è stato per anni il grande nemico, no? Al Milan, poi alla Roma, poi ovviamente alla Juventus. Però certamente è un allenatore di lungo termine, è un allenatore con cui non si costruisce un'avventura, come potrebbe essere con, ad esempio, con Mihajlovic, ma si costruisce qualcosa di più duraturo. Quindi questo è il senso, cioè mi sembra una scelta di vita quella di provare ad andare a prendere un big della panchina come Fabio Capello. Poi ci sono vari problemi contrattuali, però l'allenatore ideale per l'Inter in questo momento potrebbe essere uno come Gus Hiddink, che ha esperienza, carisma, capacità di controllare la situazione e anche di controllare i media. È uno che ne ha visti tutti i colori, ha allenato in ogni angolo del mondo, ha grande reputazione internazionale, è un grande allenatore, però è commissario tecnico della Turchia e insomma ha discorsi in ballo con il Chelsea. Poi vediamo se al Chelsea andrà davvero Villas-Boas, e non so nemmeno se quanto siano risolvibili i problemi contrattuali di Hiddink con la nazionale che sta allenando. 800 24 00 24. Ma poi insomma io continuo a pensare, a ritenere che Moratti, quando spegne la luce, sogna ancora lui. Da praticamente tutti aspettavamo, no? Interista, io stesso, abbiamo sempre e speranze fino alla fine, però la missione è praticamente impossibile. Lui. Ma Van Gaal è libero, nessuno lo dice, mi segnala Franco Piantanida dalla redazione. Insomma, Van Gaal, insomma, prima ho parlato del carrello dei bolliti con Davide Oldani, mi sembra lì vicino, insomma. Giuseppe da Genova, che dice? Sì, buongiorno. Buongiorno. Per la trasmissione. Grazie. Io volevo dire, secondo me è un errore quello di doversi cristallizzare per forza su un grande nome, perché ragionando in questo modo, per esempio, Guardiola non avrebbe mai potuto approdare alla prima squadra, Allegri stesso discorso con il Milan. Io voglio dire, in Italia abbiamo dei bravissimi allenatori giovani che sono attualmente liberi, pensiamo a Giampiero Gasperini, pensiamo a Delio Rossi. Che secondo me avrebbero tutte le carte in regola per poter. Faccio fatica a sentirlo, però i nomi di Gasperini e di Delio Rossi rientrano in questo casting che, come da giorni, insomma, sottolinea la Gazzetta, è in corso. Va anche detto che insomma, la mia idea è che allenare una grande squadra sia una questione diversa, no? Sia una questione differente. Sono bravissimi. Delio Rossi, secondo me, è in valore assoluto uno dei più bravi allenatori di campo italiani, l'ho sempre detto. I risultati di questa stagione sono soltanto un corollario di questo mio pensiero. Gasperini ha costruito qualcosa di meraviglioso con il Genoa finché è durata, ed è durata molto. Però allenare un grande club credo sia un mestiere un po' differente, bisogna avere l'abitudine, bisogna gestire dei contratti pesanti, avere a che fare con giocatori che sembrano aziende per quanto guadagnano, con i procuratori, con un apparato mediatico che non è né quello di Palermo né quello di Genova. Insomma, credo sia un mestiere un po' differente, e sarebbe un rischio grosso quello per l'Inter, io credo, quello di andare comunque a prendere un allenatore pur bravissimo, indiscutibilmente bravo, che però non abbia questa abitudine, questa attitudine. Fausto da Lodi, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo parlare dell'eventualità di Capello come allenatore dell'Inter per la prossima stagione. Io vorrei dire che al di là di quello che può essere la arcinota antipatia di Capello per qualsiasi gruppo di tifosi, anche quelli per i quali lui ha lavorato, cioè, è indubbio che come professionista sia sempre stato un esempio, che sia magari un sergente di ferro, e ma forse di questo è indiscutibile, questo è indiscutibile, no? Cioè le qualità di Capello sono indiscutibili, ma parla per lui la carriera che ha fatto, no? E poi la cosa che mi fa rimanere un attimino fiducioso è che Capello è sempre, quando è andato in una squadra, ha sempre detto al presidente: guarda, se vuoi fare qualcosa io ho bisogno di questo, questo e questo. Sì. Di modo che non ci ritroviamo a gennaio come l'anno scorso a dover comprare qua e là perché non si è fatto niente durante tutta l'estate. E a me sarebbe piaciuto però vedere allenatori come Delio Rossi o Gasperini avere la possibilità di allenare una grande squadra, anche l'Inter. Primo problema è liberarci dall'idea che l'anno prossimo torni Mourinho o chi per lui, perché con quello non si va da nessuna parte. Sì. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Rimango del mio pensiero, cioè certamente sarebbe bello per tutti, soprattutto per chi non è tifoso dell'Inter come sottoscritto, vedere un allenatore come Delio Rossi, lo ripeto, che allena una grande squadra, perché carriera alla mano lo meriterebbe, però sarebbe un rischio grosso soprattutto per l'Inter, io credo, perché per le ragioni che dicevo prima, che è inutile che stia a ripetere. 800 24 00 24, numero verde. Adesso, prima di fermarci un attimo, no, signore, ve lo faccio sentire dopo, cosa dite? Faccio sentire dopo un estratto di questa conferenza stampa che ha tenuto in lacrime. 800 24 00 24, numero verde. Ripeto, state con noi perché dovremmo essere in grado di dirvi dopo la borsa qual è la situazione di Sanchez, qual è la quotazione, visto che siamo in termini borsistici, di Sanchez, qual è il suo fixing e dove, in quali tasche finirà. A dopo. Allora, io ho promesso ai nostri ascoltatori delle risposte e manteniamo la parola, ringraziando il presidente più gettonato del mondo in questo momento, Giampaolo Pozzo, presidente dell'Udinese. Presidente, buongiorno. Buongiorno, un po' esagerato. Quanto passa al telefono? È così. Andiamo avanti. Quanto passa al telefono in questi giorni? Per dire la verità è caldo, però insomma, io ci tenevo. Il lavoro lo faccio a tempo perso. Sì. Non posso seguirvi troppo, per la verità, no? Perché senta, io ci tenevo. Ho già la mia attività e questo lo faccio solo per passione. Sì, ma molto bene, peraltro. Io ci tenevo a farli complimenti per il Granada, innanzitutto, prima di chiedere gli altri. Sono contento perché è stata una cavalcata divertente. Cosa rappresenta per voi il Granada, squadra, insomma, una vostra, è giusto, società satellite? Sì, direi di sì, perché in effetti abbiamo preso lì una società rovinata, perché aveva un 10 milioni in Serie C, 10 milioni di deficit, quindi tecnicamente fallita, e l'abbiamo presa lì così e l'abbiamo portata in 2 anni in Serie A, quindi c'è grande riconoscenza della cittadinanza, perché loro hanno fame di calcio e poi sono persone del sud con molto calore, molta voglia di socializzare, di divertirsi, eccetera, ed è stata un'esperienza interessante, bella. Arrivare poi alla promozione e tutti, diciamo, quegli aspetti sentimentali, diciamo, sono arrivati al massimo dell'espressione. Presidente, io adesso devo chiederle dove va il giocatore più richiesto del mondo, Sanchez. Per ora va all'Udinese, fino ad oggi. E forse ancora per altre varie giornate, perché c'è questo aspetto che io rispetto, no? Tutti vogliono negoziare, tutti vogliono fare affari, eccetera. Però una cosa che mi ha un po' sorpreso, sì, è che queste grandi società, quelle che potrebbero, diciamo, acquistare questo giocatore, no, non hanno dato la giusta, non so se lei ricorda Ibra, sì, Kakà, sì, mi pare a suo tempo anche Vieri, no? Certo. Sono stati pagati per quello che valevano ed erano cifre importanti, sì, no? Le società entravano, come si dice, a gamba tesa, no? Sì. E pagavano. E portavano a casa il giocatore, certo. E portavano a casa il giocatore. Qui invece si vogliono fare, diciamo, delle trattative infinite, perché anch'io sono un po' stanco. Se nessuno fosse venuto a cercare Sanchez, io sarei stato l'uomo più felice del mondo, perché è molto giovane, poteva stare ancora un anno qua. Noi abbiamo impegni a livello, diciamo, sportivi importanti, sì, certo, no? Certo. E quindi non avevamo nessuna fretta di venderlo, no? Perché questo è un fuori classe assoluto. Io lo paragono a Messi e lei fra un anno mi dirà se le ho raccontato una barzelletta o se è vero. No, poi presidente, anche da uomo d'affari con la Coppa America dietro l'angolo, insomma, potrebbe crescere ancora il valore di questo giocatore. Ecco, quindi non avevo nessuna fretta. Purtroppo, quando bussano prepotentemente, più che bussare, buttano giù la porta, no? Grandi società, purtroppo sei costretto a dire non posso rimandare al prossimo anno, devi ascoltarli, perché poi c'è il procuratore, sicuro, c'è il giocatore che evidentemente, se può andare ad esempio al Barcellona, dove lui preferirebbe per ragioni di lingua, di cultura, eccetera, no? E lui spinge per quella soluzione. Ma il più vicino all'Inter, più Barcellona, il Barcellona o l'Inter in questo momento? Sì, ma in questo momento Barcellona, perché in realtà è quella dove ha presentato un'offerta, diciamo, più adeguata, che non lo è ancora, perché il giocatore, guardi, inutile illudersi, se fosse un giocatore del Milan, dell'Inter, cioè, che lo chiede una grande società in Spagna o in Inghilterra, minimo lo devi pagare 50 milioni. Lei è d'accordo? Lei che è del settore. Io sì. Ecco. Ma poi il prezzo, Presidente, lei sa meglio di me, il prezzo lo fa il mercato, no? Il prezzo lo fa il mercato e questo giocatore... Giocatori dei fuori classe, che non ce ne sono, che ogni generazione nascono uno o due, non c'è niente da fare. Quando viene fuori un giocatore così, metti i soldi e non se ne parla più. E qui invece, siccome noi siamo una piccola società, si tira e molla. Però, insomma, bisogna che tutti si mentalizzano, lo vogliono, lo paghino, ci mettiamo d'accordo. Uno può dire, ma guarda, non ho i soldi. Ok, se non li hai, mi pagherai in 5 anni. Ma devi pagare il giusto prezzo, questa è la sostanza. Sì. Non, fino adesso non è successo, non voglio fare nomi di chi lo fa o chi non lo fa. Fa parte della normale trattativa, ci stiamo al gioco, però la situazione per ora è questa. Sì, ed è da chiudere. Io ho un sacco di messaggi da Udine. Paron, tieni Sanchez che ci divertiamo il prossimo anno. Lo farei col cuore, vi dico, un anno passa in un momento, quindi non è questione di voler far cassa, eccetera. Non ho... io le dico, il calcio lo faccio per divertimento, lo faccio in forma a livello mio personale, diciamo, con la mentalità dilettantistica, no? Perché il calcio non è il mio lavoro, il calcio è come uno va a pesca, l'altro va a caccia, l'altro fa il playboy, io faccio questo, mi piace il calcio. Le riesce, non so. Anche forse perché ho 70 anni, il playboy non posso fare. Non so come riesce a fare il playboy, andare a caccio a pesca, ma fare calcio le viene benissimo. Io leggevo sconcerti lunedì scorso, tutti concorrono a far più ricca l'Udinese. Scriveva anche, l'Udinese è in questo momento nel punto più lontano della sua strada, è così? Ma guardi, io non vado alla ricerca di profitti, eccetera, perché io ho il mio lavoro, mi sono dedicato alla mia attività industriale, l'ho fatto per tanti anni, l'ho fatto per passione, se ricominciassi da capo lo rifarei, e il calcio è una passione con un hobby, e quindi lo faccio per hobby e non mi incattivisco negli affari. Caduta la linea con il presidente Pozzo e Inler, dove lo mettiamo? Adesso proviamo a ripristinarla al volo, anche perché io ho qui intorno un sacco di tifosi napoletani e juventini che vedo al di là del vetro e che sono lì tutti a pendere dalle labbra del presidente Pozzo per capire dove andrà Inler. Su Sanchez mi sembra che la situazione sia piuttosto chiara, no? L'avete sentita ora, dunque Sanchez è molto vicino al Barcellona, l'Udinese vuole 50 milioni di euro, è giusto o sbagliata questa quotazione? Io non lo so, ma io sono sempre dell'idea, non mi scandalizzo di fronte a queste cifre, le quotazioni le determina il mercato. Quindi Barcellona più vicino rispetto all'Inter e la situazione è questa, ma l'affare è ancora lontano dall'essere concluso. È tornato presidente Pozzo, cui io per salvarmi la pelle, visti i napoletani e gli juventini che mi circondano qui al di là del vetro che la stanno ascoltando, Inler, presidente, Inler che fa? Non so nulla, ho l'impressione che rimanga Udine, perché quando le cose si tirano tanto a lungo. Io ricordo, guardate, doveva andare al Napoli, doveva andare ugualmente alla Juve, e poi è rimasto a Udine, purtroppo in quel caso lì il ragazzo è rimasto deluso e non ha avuto poi quel rendimento, però sì. Ero contento anche che rimandesse a Udine. E qui Inler ho paura che faccia la stessa strada, perché quando gli affari si tirano tanto per la lunga vuol dire che non quadrano, anche se io l'accordo l'avevo con il Napoli, sì. E sembrava che il ragazzo, ma poi c'è qualche difficoltà, quindi se rimane a Udine, ribadisco quello che ho detto altre volte, lo attendo a braccia aperte. E quindi con Inler e Sanchez restano tutte e due, e allo stato dell'arte restano tutte e due, questo preliminare. Bene, di Champions League. Se rimangono tutte e due ci divertiamo perché abbiamo una squadra forte, perché più forte di quello che sembra, perché poi man mano è cresciuta, hanno fatto un gruppo, è un peccato, ecco, che si debba ogni volta perdere qualche pezzo. Poi va bene, siamo abituati, muore un papa, ne facciamo un altro, però è meglio che non muoia. Presidente, io la ringrazio e le faccio gli in bocca al lupo del caso. È un piacere, grazie, è stato un piacere. Grazie a voi e buon lavoro. Un abbraccio al presidente Pozzo dell'Udinese. C'è chi dice, Laura da Monza, vergognatevi se Moratti compra o no, sempre lo attaccate, 50 milioni di euro per Sanchez, vergognatevi. Vergognatevi, io non mi vergogno, perché dovrei? Ripeto, il prezzo lo fa il mercato. Un club come il Barcellona, se spende 50 milioni di euro per Sanchez, è perché se lo può permettere. Il fair play finanziario aiuterà i club che gestiscono il calcio come deve essere gestito, facendo soldi e spendendo soldi. Se dalle nostre parti non l'hanno ancora capito che il calcio si gestisce in una maniera differente, ovviamente questo tema ci porterebbe lontanissimo, oggi non è il caso. Se non l'hanno ancora capito, sono fatti loro. Io non mi vergogno neanche un po'. 800 24 00 24, il numero verde dal presidente dell'Udinese Giampaolo Pozzo. Avete sentito qual è la situazione attuale intorno a Sanchez e intorno a Inler, che a quanto pare più Inler che Sanchez poi alla fine, secondo me, potrebbero restare dove sono, cioè a Udine. Emiliano da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo... Come li vede 50 milioni per Sanchez? Che sono troppi. Sono troppi. Sì, perché comunque sia, è vero che le altre società, quelle le grandi, come diceva Pozzo, vendevano a più caro prezzo, però Kakà quando è stato venduto ha già dimostrato, Ibrahimovic quando è stato venduto ha già dimostrato, e Sanchez sì, è un ottimo giocatore, ma deve ancora dimostrare in un grande club quello che effettivamente vale. Avevano una anche un'età differente, no? Kakà, un chilometraggio diverso, Kakà come Ibrahimovic. Sì, appunto, è giovane il ragazzo, deve ancora dimostrare sinceramente. Magari diventa la superstar assoluta della Coppa America e il tassametro corre. Sì, ma quello io ho giocato a calcio e dimostrare il proprio valore è negli anni, cioè negli anni devi dimostrare. Un anno buono lo possono avere tutti, però poi 2, 3, 4, 5, lì il campione è quello. Non è uno che fa un anno sopra le righe, allora vale 50 milioni, come nel calcio succede così, uno fa un'annata buona e poi 40, 30, 20, ma un vero campione ne fa 4, 5, 10 anni, tutta la carriera. No, questo è corretto, questo è corretto, però Sanchez è appunto molto giovane, è esploso da poco e potrebbe essere il, non so se il prossimo Messi, come dice il presidente Pozzo, comunque una delle grandi superstar mondiali. Il discorso è se il Barcellona ci crede e vuole investire quei soldi, insomma farà i suoi conti. L'anno scorso per Balotelli mi sembra che il City abbia speso 35 milioni di euro, una trentina di milioni di euro, che comunque non sono pochi, insomma le cifre che viaggiano sono queste, 30 non sono 50, direte voi. Però, se tutto il mondo vuole questo giocatore, è segno che sono in tanti disposti a scommettere. Quindi alla Juve non ci ho mai creduto, l'Inter che si diceva avesse già un accordo col giocatore, però evidentemente in questo momento è in altre faccende affaccendate, al Barcellona, le due di Manchester, il Chelsea. Quindi questo fatalmente, no, fa salire le quotazioni. Io ringrazio Emiliano da Brescia e ringrazio Emiliano da Brescia ed è il momento di parlare invece con un campione d'Italia, un'altra volta. Siena, che ieri nel basket, ultimo risultato della stagione sportiva agonistica, ne parliamo tutti i venerdì come sapete. A proposito, venerdì in Palaspicchi sarà qui con me Danilo Gallinari per parlare soprattutto con voi. Io intanto parlo con Nikos Zizis. Ciao Nikos! Ciao. Complimenti innanzitutto per essere diventato papà di Alexandros proprio in questi giorni. Credo siano i più felici della tua vita. O no? Grazie. I giorni più felici della tua vita? È il momento più bello della mia vita e della mia moglie. Veramente non puoi fare paragone con nessuno successo in pallacanestro o qualsiasi altra cosa in vita. Nikos, io farei complimenti però anche a Cantù, perché credo che nessuno abbia negli ultimi 5 anni reso la vita difficile a Siena come questo, come questi 7,5 giocatori, diceva l'altro giorno Bruno Arrigoni, questi quasi 8 giocatori che vi hanno costretto a giocare al massimo, io credo, delle vostre possibilità. No, ma certo, io ho detto nei miei commenti anche ieri, anche in tutta questa serie, che Cantù è un'ottima squadra, con un grande allenatore, secondo me ha fatto una stagione fantastica, ha perso dei finali con un'altra grande squadra come noi, però che forse è una squadra più corta rispetto a noi, però hanno fatto un lavoro straordinario. Io non ero qua anche nel 2008, mi hanno detto che Roma era un finale scudetto molto difficile, però che a parte di gara 1 quest'anno, veramente le altre 4 gare erano belle partite da vedere, perché erano tutto a punto fino alla fine quasi. E questa era una cosa che mancava da parte nostra italiana. Nick, ti chiedo ancora questo, è stata la stagione più grande di sempre, io credo, per Siena, no? Tra Eurolega, tra l'impresa con Olympiacos, tra quella finale sfumata per dettagli, e questo scudetto molto difficile. Siena ripartirà da questa stagione meravigliosa per andare dove, secondo te? Questa stagione è finita quando vieni a settembre, hai altri obiettivi, allora forse rimangono le stesse di rimanere prima in Italia, poi magari posso andare al Final Four, forse avrai la migliore prestazione, hai ancora partite secche e può succedere di tutto, però non è facile, anche Roma è una competizione la più difficile che c'è in Europa, sicuro sono sempre grandi squadre, tutti devono andare lì, non si sa mai se sarai capace di arrivare, però sicuro la squadra ha tanta esperienza da quest'anno, anche questa nuova squadra è sicuro sarà molto importante per l'anno prossimo. E poi in Italia il Cantù è una squadra veramente grande. Sicuro loro giocano in Eurolega e vogliono fare ancora meglio l'anno prossimo, forse anche Milano con il nuovo allenatore con certo. Tanta esperienza, sicuro anche loro vogliono rispondere in questo anno, non hanno fatto un anno con successo. Nick, grazie, un abbraccio grazie, soprattutto ragazzi. Al piccolo Alexandros, e complimenti per questo scudetto con Siena che entra nella storia come il Borletti, dal 50 al 54, 5 scudetti in fila. C'è chi scrive: no caro, oggi non c'è palla spicchi. Sì, non c'è palla spicchi, però c'è una squadra campione d'Italia da ieri in modo storico, come sto ora dicendo, dunque sarebbe stato idiota non citarlo e non fare queste 4 chiacchiere con Nikos Zizis. Per chiudere abbiamo 30 secondi per salutare Alberto da Venezia. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma guardi, io veramente ho un cameo. Sì. Si parla del fair play finanziario. Sì. I dati che sono stati pubblicati per quanto riguarda l'indebitamento delle squadre europee, recitano questi dati, che il Barcellona vanta, diciamo così, un debito di 450 milioni di euro circa, sì. Ne fattura 300 milioni, sì. 280 mi dicono almeno questo genere di dati. A casa mia, quando io fatturo ho dei debiti che superano il mio fatturato, certo, di una volta e mezza, forse due, certo, devo chiudere l'azienda. Certo, questo sì, però il discorso è che il Barcellona con la sua organizzazione fattura, che il Barcellona, il Real Madrid, il Manchester United possono ottenere facilmente crediti dagli istituti del caso. Insomma, sono aziende che producono in Italia, di aziende che producono con il calcio non ce ne sono, e questa mi pare sia la differenza capitale. Grazie a Franco Piantanida per il lavoro in redazione, e ci sentiamo domani alle 2 con Mauro De Angeli in regia. Buon pomeriggio.